Torna presto, amica mia, torna presto a casa mia, non andare per il mondo senza me. Ti perderesti come stai perdendo me. Torna presto. Io di notte sono solo, se ai pensieri mi abbandono, mi vien voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te, per chi vivrò? Per chi il cuore batterà nel buio, per chi se tu non ci sei. Se l'amore che mi hai dato tra le foglie di quel prato è rimasto nei tuoi grandi occhi blu, ritorna presto, amica mia, se manchi tu, per chi vivo.